vive dentro due vans e la maglia dei Guns. Vuole fare l'attrice, ma mamma no. Scaccia tutte le Avans, primo anno di Tams. Passa ore a copiare bene le Monroe. Ed è vero che nessuno la capisce, come Darko, i libri di Nietzsche. Ed un vecchio fa finta di nulla e le tocca una tenda sul tram. Non si fida di chi è troppo felice, di chi mette solamente le camicie e le poesie d'amore che le han dedicato le conserva dentro lo spam. Qualcuno ti dà un cocktail con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti muta, tutti i dubbi su cui sei seduta. Grida sbirri merde e suo zio s'offende. Alle cene in famiglia lei fa quel che può. Dura come Bender, Iron come i Maiden, ma poi piange coi gattini su TikTok. Ha preso una stanza con una dimonza, sembrava una minca ma era una stronza. Tra un anno se tutto va bene finisce il contratto, poi se ne va. I suoi veri amici scrivono tutto con gli asterischi e ascoltano ancora qualche vinile col giradischi. Qualcuno ti dà un cocktail con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti muta, tutti i dubbi su cui sei seduta. Quando ballavi danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020. Dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti nuda, tutti i dubbi su cui sei caduta.